Buongiorno, una persona asintomatica con l'alfa privativo greco vuol dire che non ha sintomi, che sta bene e viene invitata a fare il tampone, invitata e sottolineo invitata, e fa il tampone, genera a cascata tutta una serie di conseguenze dovute alle linee guida e ai protocolli che sono stati implementati dal punto di vista sanitario nella situazione di sorveglianza sanitaria eccezionale, emergenziale. Una persona deve far valere i propri diritti. Il tampone rinofaringeo, orofaringeo, nasale profondo sono accertamenti sanitari, diagnostici, molecolari, biologici che presentano un profilo di rischio, quindi di danno alle fosse nasali, di danno all'anatomia della persona, quindi una violazione della sovranità del suo corpo con un possibile danno, perché c'è un rischio che è ineliminabile, c'è una componente di scommessa ineliminabile nei rischi connessi al tampone. Quanto grande sia questo rischio non spetta a me stabilirlo. E poi c'è un profilo di rischio legato all'esito, per cui ci sono falsi positivi e falsi negativi legati all'esito di questo test diagnostico molecolare, il cui ideatore, o meglio, il cui principio su cui si basa questo test, che è stato realizzato da un chimico premio Nobel nell'ambito della chimica, lui stesso aveva sconsigliato da usare in ambito medico-terapeutico per accertamenti sanitari. Non so se mi spiego. Ma una persona deve rifiutarsi di fare il tampone se ha una necessità sua personale di convincimento, perché è ovvio che poi se non vuole esercitare il suo dissenso informato, la sua facoltà di opporsi a un trattamento sanitario obbligatorio, invasivo e rischioso, se non vuole avvalersi di questa facoltà e quindi esercitare il principio consensualistico che è garantito da sentenze costituzionali della Corte Costituzionale e da sentenze della Corte di Cassazione, è garantito dall'articolo 3 della Carta di Nizza che tutela l'integrità psicofisica e dall'articolo 35 del Codice Deontologico Medico. Se una persona rinuncia al principio consensualistico, non lo difende, è evidente che una volta fatto il tampone è vincolato all'esito. Vincolato all'esito è imprigionato in una serie di algoritmi decisionali di profilo sanitario che portano a isolamento o quarantena. Allora là sì, quando si ha un provvedimento di isolamento o di quarantena, si finisce ingabbiati. Viceversa, se una persona rifiuta il tampone e viene prescritta una quarantena obbligatoria, scaduta la quarantena, se la persona non ha effettuato il tampone ed è asintomatica, è evidente che, come già affermato da un dirigente sanitario intervistato in una radio, un dirigente sanitario lombardo, è evidente che una persona asintomatica che finisce una quarantena, anche in ambito di popolazione pediatrica, finita una quarantena fiduciaria prescritta per motivi di precauzione, rispettata la quarantena, se non si è mai sottoposto al tampone, il tampone è solo fortemente raccomandato, ma non è obbligatorio. Ma anche se lo fosse obbligatorio, ci dovrebbe essere una normativa di rango primario, che non c'è. Non c'è in Italia una normativa di rango primario che imponga il tampone rinofaringeo, è un accertamento diagnostico invasivo e rischioso, non c'è nessuna norma, ma anche se ci fosse, il principio consensualistico varrebbe comunque, come vale per esempio per la vaccino profilassi, che è obbligatoria da decenni in Italia, ma non per questo il principio consensualistico che si è affermato negli ultimi 20 anni in Italia e in Europa viene scavalcato, non può essere scavalcato.